con Rocco Forte, regista del documentario Bogside Story, in uscita in sala giovedì 20 settembre. Rocco, ben trovato. Grazie Federico, è un piacere essere qui con te. Presentaci tu il tuo lavoro. È un documentario. L'idea nasce da raccontare la storia di questi tre artisti, tre muralisti nordirlandesi che hanno dipinto sulle mura del quartiere, il più famoso quartiere cattolico della città di Derry, la storia, i principali eventi della storia nordirlandese, come la Battle of the Bogside, il Bloody Sunday, l'Hunger Strike Period. E questa idea poi l'abbiamo ampliata, l'abbiamo arricchita con la presenza di Fulvio Grimaldi, il quale il 30 gennaio 72, giorno in cui avviene la tristemente è noto massacro del Bloody Sunday, con i suoi scatti lui ha testimoniato, ha documentato quella tragedia con i suoi scatti fotografici, uno dei quali è diventato oggi un murales da parte dei realizzato dai Bogside Artists. Quindi abbiamo pensato di, ecco, creare, far sì che loro si potessero incontrare e conoscere per la prima volta a 45 anni di distanza da quella tragedia. E da ciò poi parte tutto un excursus sulla storia, su come sono nati i murales e la storia di quella città. Come sono nati quei murales? Raccontaci un po'. Guarda, quei murales è affascinante. Allora, innanzitutto i murales sono davvero affascinanti, davvero hanno una potenza evocativa che li differenziano da tutti gli altri murales che personalmente ho visto nella mia vita. Come ci racconta Tom Kelly, che è, diciamo, il portavoce dei Bogside Artists, loro ebbero una visione, metà anni 90, il quartiere era ridotto un cumulo di macerie. Guardando praticamente dall'alto di una collina che è lì, hanno questa visione di abbellire, di decorare il quartiere con questi giganteschi murales, perché teniamo presente che si trovano sulle facciate esterne di case dove ha vissuto e continua ancora oggi a vivere gente che ha avuto. Vissuto in prima persona quegli eventi, ha avuto morti tra i parenti e ancora oggi è alla, diciamo, ricerca di una giustizia che molto probabilmente non arriverà mai. L'idea del documentario come ha preso corpo? L'idea nasce, guarda, abbastanza per caso. Una mia collega di università si trovava a Derby per un progetto sponsorizzato dalla sua regione di appartenenza. Decidiamo di andarla a trovare. Io ero ignaro, non sapevo che Derry fosse la città teatro del Bloody Sunday, non sapevo ci fossero questi meravigliosi murales e niente, ne resto affascinato. Nel proseguo degli anni, mentre ero alla ricerca di un'idea valida, oggi posso dirlo, brillante, valida, per un lavoro documentaristico, ecco, mi è balenata questa idea di fare un lavoro su di loro, quindi mi sono messo in contatto direttamente con gli artisti, con un semplice scambio di seguito un incontro di persona proprio sotto il Gasmask Mural, forse il loro più famoso murales, conosciuto anche con il nome di The Petrol Bomber, che è il primo murale, diciamo, gli ha dato notorietà e poi da lì hanno proseguito con la loro opera fino a dipingere 12 murales che hanno denominato The People's Gallery e già dal nome si capisce che la loro opera è dedicata alla gente del posto, hanno sempre lavorato per la gente del posto e con la gente del posto, mi riferisco anche all'aiuto, al sostegno che hanno avuto, morale e anche economico, come loro ci dichiarano. Ecco, Rocco, è una memoria viva e poi, Questa è la prima domanda, la seconda è com'è la situazione oggi? Allora, è una memoria viva. La situazione oggi è apparentemente tranquilla. Allora, Derry è veramente una città particolare dove bisogna addentrarsi, entrare in contatto con la gente del posto per capire un po' le dinamiche. In realtà c'è un muro divisorio invisibile. Non esiste più, non c'è più il periodo delle bombe, degli attentati, è veramente qualcosa di raro. È successo negli anni in cui facevo le mie ricerche, i miei sopralluoghi, di assistere, diciamo, essere lì presente subito dopo qualche esplosione in Derry, però mai, mai, non c'è mai, diciamo, a rischio della vita, come lo era, come lo si era un tempo. Però è ancora forte questa divisione tra le due comunità. Questo non comunicarsi, non comunicare, e anche si nota, è ben visibile, proprio una differenza nello status di qualità della vita tra il quartiere cattolico e quello protestante. Diciamo c'è più povertà in quello protestante, in quello cattolico, perdonami, il lapsus, e ancora oggi queste persone, una cosa che veramente a me mi ha sorpreso e scioccato, le persone che sono direttamente coinvolte nella ricerca della giustizia. Mi riferisco a coloro, ai parenti delle vittime, dei trucidati il 30 gennaio 72. A volte sembra che ti danno questa sensazione, come se vivessero ancora fermi a 45 anni fa. Cioè, queste persone hanno dedicato la loro vita ad ottenere giustizia dal governo inglese. Perciò è vero, la memoria è ancora viva. I murales, la People's Gallery ha sicuramente, indubbiamente aiutato a mantenere viva la memoria. Sì. Vengono descritti diversi, vengono dipinti diversi eventi, non solo il Bloody Sunday. E non solo, anche figure. Una cosa che mi ha affascinato moltissimo è che in molti murales, nella maggior parte, le persone ritratte nel murale sono realmente esistite, hanno realmente vissuto quegli eventi che sono lì dipinti. Questa cosa mi ha molto affascinato al tempo, quando ho iniziato a lavorare sul progetto, ed è stato decisamente un punto chiave, un punto fondamentale. Da ciò anche una scelta, diciamo, registica, se posso dire, di intervistare gli artisti nel quartiere, proprio vicino alle loro opere. Evitando la classica intervista nello studio, ma nello spirito della People's Gallery, che è una galleria d'arte all'aperto, ho voluto proprio raccogliere le loro testimonianze proprio immersi nel Bogside, su Roseville Street, questa strada che per la sua interezza è percorsa dai murales e che è famosissima, che ha un'importanza storica per la città di Derry importantissima. Che uscita sarà? In questo preciso istante non so in quante sale, proprio il numero esatto non lo so, perché ovviamente se ne occupa la distribuzione, che voglio ricordare, distribuzione indipendente di Giovanni Costantino, che ha creduto in questo progetto quando c'era ancora solo un promo montato, un trailer. E quindi un grande ringraziamento a lui che ha fatto sì che oggi possa uscire. Non so esattamente in quante sale, per certo sarà la prima al Cinema L'Aquila il 20 settembre di questo anno, 20 settembre 2018. Allora, io sono, guarda, già così contento, perché è un risultato che francamente non lo so, non, cioè, non, ancora oggi stento a crederci che si sta, ecco che usciamo al cinema, che una radio importante come la vostra mi chiami per un'intervista. È qualcosa di veramente sorprendente, alla quale forse non sono preparato, ma che sono contento che sta avvenendo, perché credimi, abbiamo lavorato tanto, io, Pietro Larino, il produttore, colui che mi è stato al mio fianco durante le riprese e poi nella post-produzione, che è stata difficile, è stata veramente, abbiamo impiegato un anno, i documentari tutti in lingua originale, quindi traduzioni, la sottotitolatura, il montaggio, è stato veramente un lavoro che ha richiesto tante energie, tanti sforzi, e devo ringraziare le persone che sono state al mio fianco, come Pietro Laino di Megapixel e sempre fedele Francesco Abbonante, che è l'aiuto regia. E quindi oggi quello che sarà, secondo me, sarà una festa. Ce la godremo, siamo veramente contenti, ma perché veramente c'è stato un grande sforzo produttivo, di energie dietro, perché è comunque è la nostra opera prima, e quindi puoi ben capire i Certo, motivi certo. per cui è stato faticoso. Non solo, abbiamo girato in tre nazioni d'Europa, perché le riprese le abbiamo iniziate in Slovenia, sono continuate in Irlanda del Nord, la maggior parte delle quali, e poi la parte romana, diciamo così, che ha interessato Fulvio Grimaldi, il quale poi si è prestato in una maniera deliziosa, ha messo al nostro servizio la sua professionalità, i suoi materiali, ed è venuto con noi così a farci da cicerone nel Bondi, ed è stato veramente emozionante. Ricordi indelebili, ti dico, vedere Fulvio commosso, vedere Fulvio Grimaldi fermato dai residenti di Derry, bloccato per strada e abbracciato, dicevano: tu sei il nostro eroe, quello che hai fatto tu per noi è stato fondamentale, perché non ce lo dimentichiamo. Le foto e soprattutto l'audio originale, nel quale noi siamo entrati in possesso anche, fu un momento emozionante la scoperta di quest'audio, vanno a sconfessare una versione che era la versione ufficiale del governo britannico sui fatti del Bloody Sunday. E quindi, cioè, puoi ben immaginare, puoi ben comprendere quanto Fulvio sia importante per la comunità di Derry, e quanto sia stato emozionante, veramente emozionante, ecco, essere lì con lui e rivivere la sua storia e emozionarsi con lui Sì, e sì. imparare da lui, Sì. posso dirlo. Rocco, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Guarda, i riferimenti internet sono sicuramente il sito di distribuzione indipendente, sicuramente la pagina Facebook della Megapixel di Pietro Laino, e c'è una pagina Facebook costantemente aggiornata che si chiama appunto Bobby's Story. Bene, ricordiamo il documentario Bogside Story di Rocco Forte in uscita in sala da giovedì 20 settembre con distribuzione indipendente. Rocco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Andate al nuovo cinema Aquila.